città ne parla. Io le volevo chiedere di commentare, visto che domani è il ventennale del genocidio di Srebrenica, mi sarebbe piaciuto sentire un suo commento appunto sul genocidio, su tutto quello che sta uscendo, sul veto della Russia, sull'appoggio della Russia alla Serbia, e anche un commento e un ricordo del giornalista Luca Rastello, scomparso da poco e che di Bosnia si è occupato moltissimo nei suoi primi anni. Anch'io ricordo quello che è successo a Srebrenica. Sono le 10, 1 minuto e 10 secondi del 10 luglio. 20 anni fa, nella Bosnia orientale, in una cittadina che si chiamava Srebrenica, dove si erano affollate moltissime persone che da quelle zone della Bosnia si erano rifugiate scappando dalla pulizia etnica messa in atto ormai da tempo dalle milizie serbe, videro l'ingresso in città. In realtà era l'11 luglio, oggi è la vigilia dell'anniversario delle milizie poi guidate dallo spietato generale Mladic, l'inizio di qualcosa che fu poi definito giustamente il peggior crimine perpetrato sul suolo europeo dopo la fine della seconda guerra mondiale. Oltre 8.300 persone, cittadini bosniaci di fede musulmana, vissuti come un ostacolo da rimuovere, forse sacrificati anche dalle potenze occidentali sull'altare della Realpolitik, per giungere poi ad una pace che arrivò in effetti qualche mese dopo con gli accordi di Dayton. Oggi noi di Radio 3 ricordiamo, sulla sollecitazione di questi ascoltatori che avete appena sentito, che hanno chiamato stamani a prima pagina, la memoria e il presente della Bosnia dei Balcani. Lo faremo noi, lo continuerà a fare Anna Maria Giordano con una puntata speciale di Radio 3 Europa, che avrà come ospite Lucio Caracciolo, e poi ancora ci tornerà Fahrenheit alle 15. Radio 3 non smette di ricordare e non smette di sottolineare come la memoria sia lo strumento per capire innanzitutto il presente e il futuro. 335-5634-296 è il numero a cui potete intervenire anche voi stamani, come sempre, via SMS. Siamo su Facebook come La Città Radio 3, su Twitter come Radio 3 Tweet, e abbiamo un sito che è il sito della trasmissione, lacittà.rai.it. Sono già collegati con noi due voci di giovani bosniaci che oggi vivono in Italia e che fuggirono a quel massacro di 20 anni fa. Elvira Mucicic, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, salve, grazie. Lei è collegata con noi, mi corregga, lei sta partecipando ad una marcia della pace che ogni anno si svolge dalla cittadina di Tuzla verso Srebrenica, è giusto? Sì, esatto, siamo nell'ultimo giorno, all'ultimo tratto, insomma gli ultimi 40 chilometri. Verrò subito da lei, mi lasci salutare anche Shems Osmanovic, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno, grazie a voi. Anche lui era un ragazzino a Srebrenica, quando nei giorni terribili del massacro, che riuscì a sfuggire, oggi vive in Italia, vive a Trieste, dove è presidente della comunità bosniaca ed è sociologo, ha avuto la possibilità di studiare, di formarsi e trovare poi un percorso professionale nel nostro paese. Mucicic, ci dice innanzitutto il senso di questa marcia, che cosa sta succedendo? Beh, il senso della marcia è appunto cercare prima di tutto di ricordare, poi di ripercorrere quello che è stato un tentativo di fuga dei bosniaci che nel 95 cercarono di scappare da Srebrenica per raggiungere il territorio libero, per cui a noi facciamo questo percorso al contrario, partendo appunto da quello che doveva essere la loro meta. E torniamo invece a Srebrenica, dove appunto arriveremo stasera. In realtà può tocciare al memoriale. Il memoriale che si trova proprio nel luogo in cui si trovavano i caschi blu di nazionalità olandese, che nulla fecero, esatto, per proteggere i vostri fratelli, i vostri padri. Ci racconta la sua storia personale, Elvira? La mia storia personale, avevo 12 anni quando è iniziata la guerra, però sono uscita da Srebrenica nel 92 appunto, mentre mio padre, mio zio e altri parenti sono rimasti perché non potevano uscire in quanto maschi maggiorenni, e li abbiamo sentiti per tutti e tre gli anni mentre erano in questa enclave, a un certo punto anche protetta dall'ONU, come diceva lei. E poi l'ultima volta li abbiamo sentiti tramite radioamatori il 30 giugno del 95, dandoci l'appuntamento per il 15 luglio, perché era ogni 2 settimane, e ovviamente, come poi sa la storia, questa cosa non è mai accaduta. loro non temevano quello che stava per succedere, cioè che in fondo le milizie serbe incontrastate avrebbero potuto fare il buono e il cattivo tempo, entrare a Srebrenica, uccidere migliaia di persone. Era inconcepibile, era davvero imprevedibile. Sì, dal vostro punto di vista, almeno, insomma, almeno per quanto riguarda i miei familiari, ma c'era una fiducia cieca in quello che era la comunità internazionale, cioè il fatto che ci fossero dei caschi blu assolutamente ci metteva in una situazione di sicurezza, che sì, la guerra sarebbe durata ancora magari per un po', la fame pure, però nessuno avrebbe permesso un massacro del genere. Invece così accadde, ci sono delle responsabilità occidentali che di cui si sa, ma che oggi emergono nero su bianco anche grazie a un'importante inchiesta giornalistica del quotidiano britannico Observer, che gli ascoltatori italiani possono ritrovare stamani in edicola su Internazionale, che mette un po' i brividi se lo leggiamo, perché si capisce che in realtà quella zona della Bosnia orientale è stata esplicitamente sacrificata, lasciata nelle mani degli assassini sanguinari, che i cui volti ben conosciamo tutti noi, perché si pensava che questo sacrificio, la parola è stata usata per esempio dall'inviato americano Holbrooke, che poi gestì gli accordi di pace di Dayton, sarebbe stato utile per uscire dal conflitto. Ci dice della marcia quante persone stanno partecipando? Sentiamo delle voci intorno a lei, chi sono queste persone, di che nazionalità sono? Siamo in tanti, i numeri non sono mai giusti, però insomma si parlava di circa 10.000 persone, non so se è un dato attendibile, però siamo appunto una coda molto lunga, per cui non ci incontriamo su questi sentieri, non ho la percezione di quanta gente c'è, se non quando rientriamo la sera negli accampamenti, dove effettivamente siamo in molti. E ci sono molti bosniaci, molta diaspora bosniaca che partecipa da tutte le parti del mondo, e poi in realtà io sono in un gruppo di italiani e francesi, e ci sono tanti italiani, per cui è molto bello, e le persone qui sono grate perché non si capacitano del fatto che altre nazionalità si ricordino di ricordare questa storia, per cui c'è una gratitudine che fa bene anche a chi viene a fare questa marcia. Cittadini serbi ce ne sono? Io non ne ho visti sinceramente, quindi, però non posso escludere che ci siano, anche perché quando parlo nella nostra lingua tendo a non chiedere se... Non è immediato, questo è già importante. No, non è immediato, perché non è bello, insomma. Quindi è una differenza che non emerge neppure in modo immediato se si parla con una persona, eppure è una differenza forte. Se è vero, secondo un sondaggio che ho tra le mani, che soltanto il 54% dei cittadini serbi condanna il crimine di Srebrenica, come a dire il 46%, quasi uno su due, non lo condanna, e poi il 70% dei serbi è contrario, come il suo governo, all'adozione della parola genocidio, ciò che spiega quanto è accaduto due giorni fa il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e non è passata per il veto russo una risoluzione di condanna promossa dalla Gran Bretagna, che di fatto voleva rendere universale l'etichetta di genocidio per quel che accadde da quelle parti. Rimanga ancora con noi, se può, Elvira Mugici, oppure se vuole, se sta camminando la possiamo richiamare, la sua voce è preziosissima stamattina, perché vogliamo sentire anche Shemso Osmanovic, che mi sente? Sì, la sento. È con noi. Posso chiederle anche a lei di sinteticamente raccontarci la sua esperienza personale, quella che l'ha poi portata a fuggire da lì e a venire in Italia? Sì, praticamente io avevo 10 anni quando è scoppiata la guerra in Bosnia, vivevo in un piccolo villaggio vicino a Srebrenica, e poi sono venute l'esercito serbo-bosniaco, che ad un certo punto abbiamo dovuto lasciare la nostra casa e siamo andati verso il centro di Srebrenica. Dal 92 fino al 95 ho vissuto a Srebrenica, in questa cittadina che sinceramente posso chiamarla un grande concentramento, perché prima della guerra eravamo nella città 6.000 abitanti. Con Mentre invece quanti siete arrivati ad essere durante la guerra? 60.000, quindi praticamente questa cittadina si è trasformata in un grande campo di concentramento. E poi nel 93 vengono caschi blu, proclamano Srebrenica una zona protetta, e noi abbiamo pensato che per noi la guerra è finita. Non potevamo immaginare che tra 2 anni succederà il massacro, il genocidio. Senta, e poi cosa le è successo? Praticamente all'improvviso l'esercito serbo-bosniaco attacca questa enclave, e praticamente noi abbiamo dovuto scappare verso la base dell'ONU che si trovava a Potoçari. Siamo riusciti ad entrare dentro, io con la mia madre e tre sorelle. Invece i miei due fratelli e padre hanno dovuto intraprendere una strada per andare verso Tuzla tramite le montagne. Poi 11 luglio, verso pomeriggio, verso le 3-4 del pomeriggio, entrano i soldati serbo-bosniaci. Praticamente dopo qualche minuto viene anche il generale Ratko Mladic, ci dice che siamo protetti, noi abbiamo creduto, e poi subito quando lui è andato, loro sono entrati dentro la base, hanno cominciato a selezionare i ragazzi da 12 anni fino all'età di 80 anni, e li prendevano, li portavano 100 metri dalla base, li uccidevano, noi potevamo anche sentire i spari. Senta, voi stavate insieme ai caschi blu olandesi, il ruolo dei caschi blu olandesi è decisivo, ormai fa parte di una delle pagine più nere della storia europea. Abbiamo anche raccontato, anche noi qui a Tutta la città ne parla, il fatto che c'è stata una condanna anche dal Tribunale Civile dei Paesi Bassi per una causa presentata contro lo Stato olandese per il fatto che non agirono, anche se appunto il mandato era quello, era limitato. Voi reagivate sentendo questi spari, e loro, i caschi blu che lei vedeva di fronte a sé, ragazzino di così giovane? Praticamente io sono andato verso un soldato dell'ONU e gli ho chiesto se può in qualche modo proteggermi. Lui mi ha scaricato proprio e mi ha detto: non posso fare niente, anche noi siamo spaventati. E praticamente dopo due o tre giorni c'era una unica uscita praticamente. Lì si trovavano due soldati serbi e prendevano i ragazzi. Io ho avuto fortuna perché ero più piccolo. A sinistra prendevano i ragazzi e li uccidevano subito, e a destra chi facevano salire sull'auto praticamente andava verso Tuzla. Quando mi sono presentato io con le mie tre sorelle e la mia madre, praticamente un soldato bosniaco di età 35 anni ha messo un grande fucile in piedi che era più grande di me, mi ha dato un schiaffo e mi ha detto: tu non puoi portare questo fucile e puoi andare verso Tuzla. Osmanovic, è davvero difficile riuscire a mettersi nei suoi panni e ascoltare questa storia mantenendo la serenità necessaria per raccontare questa vicenda vent'anni dopo. Io abbiamo anche raggiunto di nuovo al telefono Elvira Mujic, ci si era interrotta la linea. Cosa rappresenta Srebrenica e la Bosnia per voi, che avete peraltro scelto di vivere in Italia? E cominciamo da lei, Osmanovic. Srebrenica è una oscura macchia sulla coscienza dell'umanità, ma è anche una sconfitta collettiva per tutti noi. Per il genocidio di Srebrenica ci sono quelli che hanno più responsabilità e quelli che hanno meno, ma tutti sono responsabili. Elvira Mujicic, lei ci torna spesso in Bosnia? Ma io dipende, ci sono degli anni in cui torno di più e degli anni in cui torno di meno. Quest'anno è la prima volta, quindi sono tornata esclusivamente per commemorare, insomma, facendo la marcia e poi andando domani alla commemorazione a Potoçari. E quando ci torna che cosa prova? È lo stesso luogo che ricorda da bambina o...? Oh no, ma quello è un luogo dell'anima che non c'è più, ovviamente, perché l'esilio poi trasforma i luoghi che abbiamo abbandonato in luoghi ideali, nostalgici. No, adesso c'è una Bosnia reale come lo è il paese in cui vivo, l'Italia, quindi con i suoi pregi, i suoi difetti, tanti problemi, tante ferite assolutamente, però è la... scusi perché ho il fiatone perché stiamo facendo perché sta camminando, ricordiamolo ancora, sta sì, facendo l'ultimo tratto di questa marcia di tre giorni, quindi... che in fondo è il percorso all'incontrario che fecero in tanti che cercarono di fuggire dalla morte verso Tuzla fuggendo da Srebrenica, e quindi spero che l'ha recuperato il fiato. Sì, adesso ecco. C'è un attimo di piano perché poi la Bosnia, per chi la conosce, insomma, è tutto un sali e scendi. Ed è un territorio, diciamo, bellissimo, quello delle vallate intorno, sì, alla Drina dove sorge Srebrenica, davvero meraviglioso. Esattamente. E quindi, insomma, le dicevo, appunto, è un paese che sì, ha tante ferite, però è un paese che potrebbe anche ripartire se solo avesse la possibilità di ripartire. In questo senso c'è una grande responsabilità della comunità internazionale, anche solo io vedo qui tantissimi ragazzi con le magliette anti-Dayton, che è una, insomma, un pensiero abbastanza comune qui, questo non capacitarsi del perché un trattato di Dayton è stato fatto e continua a essere quello che governa la Bosnia, fondamentalmente mantenendo la divisa, mantenendola nella condizione di un post-guerra eterno. Ecco, ricordiamo cosa successe a Dayton e dunque cos'è la Bosnia disegnata oggi in quegli accordi di 20 anni fa, era la fine del 1995. E facciamolo con Andrea Oscari Rossini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, che è una realtà importantissima nel nostro paese, che ci ha, da oltre due decenni ci ha fatto conoscere e seguire le vicende di quella zona così tormentata dell'Europa. E la Bosnia di oggi è una federazione costruita con due entità etnicamente separate. Questa è una grande colpa che molti attribuiscono a quanto avvenne a Dayton. Ci puoi riassumere brevemente quello che è successo per la cittadina dell'Ohio? Gli accordi di pace di Dayton avevano due obiettivi, quello di portare la pace in Bosnia e Erzegovina, e da questo punto di vista ci sono in qualche modo riusciti, perché da 20 anni non ci sono più conflitti, scontri aperti, scontri armati in Bosnia e Erzegovina. Però l'altra ambizione del trattato era quello di creare un assetto costituzionale che fosse sostenibile. Da quel punto di vista, secondo non solo noi ma secondo la maggior parte degli analisti che si occupano di Bosnia e Erzegovina, è stato un insuccesso totale, perché ha creato un paese non sostenibile, con centinaia di ministri diviso in due entità, un distretto a tre presidenti, 10 cantoni. Non è un paese che da un punto di vista proprio da un punto di vista amministrativo fa molta fatica a funzionare, e soprattutto diciamo il peccato originale di Dayton è che in qualche modo ha accolto quelle che erano le posizioni dei nazionalisti. C'è sì il mantenimento di un paese formalmente unito con il proprio seggio alle Nazioni Unite, però è un paese diviso su linee etniche che forse oggi non avrebbero più motivo di sussistere. Senta, chi è oggi contrario alla divisione secondo linee etniche della Bosnia e Erzegovina? Ma io direi che in generale c'è una grande cautela da parte della comunità internazionale, un grande timore a toccare Dayton, perché si ha paura che qualsiasi tentativo di riforma possa provocare reazioni, diciamo, reazioni tipo quelle degli anni 90. Per quello c'è stato, fino a un certo punto, ci sono stati grossi tentativi, anche conferenze da parte della comunità internazionale, soprattutto Unione Europea e Stati Uniti, di arrivare ad una sorta di Dayton 2, a superare quegli accordi. Poi da un certo punto in avanti invece è stata abbandonata qualsiasi velleità, ed è stato come affidato ai bosniaci il compito di riformare Dayton da soli. Io credo che questo non sia possibile, non è possibile che lo facciano i bosniaco-erzegovesi da soli. C'è bisogno di un sostegno della comunità internazionale e sicuramente di coloro che erano tra i firmatari, i promotori di Dayton. Ecco, ora è il momento dunque di venire a uno dei nodi più difficili, più sensibili oggi, a 20 anni di distanza dal massacro, e cioè appunto le responsabilità, il ruolo attivo delle grandi potenze occidentali. Siamo riusciti a raggiungere al telefono Emma Bonino, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Siamo molto contenti di averla con noi, grazie davvero della disponibilità. Emma Bonino è innanzitutto una protagonista di quelle vicende, perché da pochi mesi era, quando si verificò il massacro, commissario europeo per gli aiuti umanitari d'emergenza. Ci racconta innanzitutto come visse lei quei giorni difficilissimi, Bonino? Beh, io ero al Parlamento europeo, ero appena tornata da una missione, dall'altro grande dramma umanitario di quel tempo, che erano grandi laghi in Africa, con campi da 1 milione di rifugiati a Goma. Insomma, una situazione veramente, veramente complicata. E mentre facevo il rapporto al Parlamento europeo arrivò la notizia della caduta di Srebrenica. Ricordo perfettamente che, siccome le notizie erano molto confuse e non riuscivamo a metterci in contatto neanche con la Croce Rossa, decidemmo di andare. E via Londra raggiunsi Tuzla, perché ci avevano detto che file di rifugiati si stavano dirigendo verso Tuzla, fuggendo da Srebrenica. Quando siamo arrivati sull'airstrip di Tuzla, in effetti tutte e due troviamo un campo, insomma. E la cosa che più mi ricordo dal punto di vista drammatico era che era un caldo micidiale sotto quelle tende, in un silenzio spettacolare, e che a prima vista era evidente che mancavano tutti gli uomini e i bambini. Ricordo di aver, noi sostenevamo 42.000 persone che erano i cittadini e le cittadine di Srebrenica, e avendo contato, a parte che mancavano appunto anche a prima vista si vedevano uomini e gli adolescenti in grado già di combattere, in effetti furono contati 36.000 tra donne, bambini e vecchi. Quindi subito denunciai che ne mancavano 8.000. Ricordo che la sera volevamo assolutamente ripartire per tornare in Europa, io poi dovevo venire in Italia, e non riuscimmo per un grande temporale per cui l'elicottero della Croce Rossa non riuscì a passare le montagne, tornammo indietro e passai la notte lì. Ma il giorno dopo facemmo un rapporto a tutte le capitali che incontrò solamente un silenzio, non dico indifferenza, ma insomma quasi nessuna reazione. Eppure mi mancavano 8.000 uomini, questo mi pareva evidente. Le donne ci raccontavano che erano state separate proprio a Srebrenica dai loro uomini, dalle truppe di Mladic. E lei cosa fece di fronte a questa evidenza agghiacciante? Io avvertì tutte le capitali, che avevano ovviamente di tutta evidenza, come scopriamo adesso, più informazioni di me. Una delle risposte che ottenni è probabilmente gli uomini stanno scappando nelle foreste. Io facevo notare che veramente di foreste non ce n'erano più dopo tanti anni di guerra in cui il legno viene utilizzato per altri motivi. E mi ascoltò solo Madeleine Albright, che proprio agli inizi di agosto rese pubbliche le foto satellitari, cui si vedeva benissimo che c'erano delle fosse comuni. Che era l'allora segretario di Stato americano. Ma non solo fosse comune, io le voglio sottoporre delle domande perché che prendono spunto da un articolo, un'inchiesta giornalistica del quotidiano britannico Observer, l'abbiamo citato anche poco fa. Però si racconta che addirittura via satellite c'è chi nei servizi segreti americani vedeva quello che stava succedendo. Non questo solo per dire. Questo lei chiaramente non ce lo sa dire, è un'inchiesta giornalistica, ovvio, e poi però magari emergeranno altre evidenze. Però quello che emerge da questo lungo articolo, che oggi è anche in italiano su Internazionale, ci sono delle cose che mettono i brividi, perché lo stesso Holbrooke, l'inviato degli Stati Uniti, confessò qualche anno dopo, nel 2005 per esempio, a una televisione bosniaca: fin dall'inizio avevo ricevuto istruzione di sacrificare Srebrenica, cioè di lasciarla nelle mani di Mladic, se lo dice lui. Ma del resto in questo articolo ci sono anche altre testimonianze nero su bianco. Ci può spiegare come stavano le cose? Non lo so, l'avessi saputo di tutte evidenze. Perché allora, come oggi, le capitali, come dire, che contano, ma ci metto anche la Francia piuttosto che l'Inghilterra, eccetera, eccetera, fanno politica estera ovviamente senza mai avvertire Bruxelles. Non mi pare che col Trattato di Lisbona sia cambiato molto. Tant'è vero che più recentemente l'intervento francese in Mali, giusto o sbagliato che sia, non è questo il problema, è stato fatto unilateralmente e Bruxelles è stata avvertita dopo e il Consiglio dei Ministri degli Esteri ratificò questa scelta unilaterale fatta dai francesi. E non è cambiato molto, nel senso che le grandi capitali, in particolare i membri del Consiglio di Sicurezza, poco condividono, diciamo, con gli altri attori, ancorché umanitari, che siano essi europei piuttosto che americani. Quindi io prendo atto di quello che dice Holbrooke, è abbastanza sconvolgente, ma il tutto poi nasce da un problema di fondo, cioè che i caschi blu in realtà non avevano il mandato di proteggere le persone. Era ancora un'epoca in cui si credeva che, insomma, la bandiera delle Nazioni Unite fosse inviolabile. Ed è quello che si credeva anche nei campi africani di Goma e quant'altro, finché Kagame invece decise di intervenire e di sbarazzarsi diciamo, del milione di Hutu che stavano alla frontiera. In meno di un anno i due genocidi che hanno concluso in maniera davvero indegna il XX secolo, che segnarono di fronte all'opinione pubblica internazionale l'impotenza reale di fronte alla violenza brutale. È cambiato qualcosa? Non mi pare molto. Se noi oggi guardiamo la Siria, vediamo altrettanto una situazione umanitariamente incredibile, con nessun accesso all'interno della Siria e con le potenze mondiali e regionali, peraltro, perché questa è la novità degli ultimi anni, che hanno interessi loro, e su questi interessi, ovviamente, come dire, la parte umanitaria è stata completamente dimenticata. Anche i progressi che avevamo fatto nella fine degli anni 2000, si parlava di responsabilità di proteggere, insomma tutti i concetti che mi pare siano stati spazzati via negli ultimi anni. Emma Bonino, le voglio chiedere un'ultima cosa, so che poi ci deve lasciare. Sì. A proposito dell'eredità e anche di quello che ci insegna Srebrenica sull'Europa di oggi, un giornalista italiano che molto ha seguito quella zona e quelle guerre, come Gigi Riva sull'Espresso, in un articolo settimana scorsa scriveva che la spartizione della Bosnia Erzegovina su base etnica, come si disegnò negli accordi di Dayton, è un peccato originale che l'Europa sta ancora scontando e che al mercato della sopravvivenza dei suoi valori conta anche più degli indici di borsa. È breve il passo tra la chiusura in clan tribali e i sigilli che vorrebbero mettere alle sue frontiere esterne. Stamani sul Sole 24 Ore c'è un articolo di Adriana Cerretelli che parla di tutt'altro, parla di Grexit, parla della crisi greca, che inizia però giustamente riportando in evidenza gli stereotipi nazionalistici, per esempio dei tedeschi e dei nord europei contro i greci. C'è un legame tra questi due piani, tra questa logica etnicizzante dell'Europa a 2015? Diciamo, quello che non abbiamo superato in Europa è il nazionalismo, e con lui gli stereotipi nazionali. Non siamo mai diventati un popolo europeo, non siamo gli Stati Uniti d'Europa, non lo pare che in molti non lo vogliono diventare, e in questo modo, secondo me, semplicemente si sbriciola l'Europa in quanto tale. Ma siamo ancora vittime, anche noi diciamo così, che in Italia, in Francia... Gli stereotipi sono duri a morire, Sono duri a morire. Vediamo come trattiamo gli immigrati, tanto per... Come dire, non è solo esercizio di memoria, ricordare Srebrenica. No, è attualmente presente. Emma Bonino, grazie davvero, grazie molte. Io vorrei tornare da Andrea Oscari Orsini, che ci sta ascoltando, da Sarajevo, se non sbaglio, vero Rossini? Sì. Per chiederle, ritornando appunto al presente, che cosa si prevede accadrà domani, proprio nel rapporto, soprattutto a proposito di logiche interetniche tra serbi e musulmani di Bosnia. Si prevede che il primo ministro serbo andrà, anche se è un uomo che non è molto gradito in Bosnia. Il primo ministro Vucic ha annunciato che parteciperà alle commemorazioni di Potoçari, e questo direi che è un segnale positivo, anche se giunge al termine di giornate, di settimane in cui la questione del genocidio di Srebrenica è stata molto politicizzata. A un certo punto Vucic addirittura ha dichiarato che non sarebbe venuto se fosse passata la risoluzione che definisce appunto Srebrenica come genocidio al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Cioè, sono stati una serie di, come dire, do ut des che poco hanno a che fare con quello che dovrebbe essere lo spirito della giornata di domani. Alla fine Vucic ha annunciato che verrà, e questo credo che appunto sia un segnale positivo di un passo verso il riconoscimento delle responsabilità, e un segnale positivo dal punto di vista dei rapporti regionali. Chiediamolo a Elvira Mucicic che effetto le fa il fatto che ci sia domani, e che lei stessa vedrà, immagino ci sarà, alle commemorazioni ufficiali, il primo ministro di un paese che ha dichiarato: il governo ha preso questa decisione, cioè di andare, perché noi serbi abbiamo l'obbligo di essere responsabili e seri e di dimostrare che rispettiamo le vittime altrui. Questo è il solo modo modo perché si comincia a rispettare le nostre vittime, già questa aggiunta la dice lunga, ma soprattutto Vučić è una persona particolare. Già nel 2010, al 15° anniversario di Srebrenica, si era recato lì per, insieme ad altri leader mondiali, un primo ministro serbo che era Tadić, però lui era un uomo sicuramente meno inviso ai bosniaci. Qui invece stiamo parlando di un primo ministro ultranazionalista che fece parte del governo Milošević. Che effetto le farà vederlo domani, Mužičić? Beh, personalmente, a parte appunto il fatto che è una questione espressamente politica, non può essere naturalmente visto come un segnale positivo. Sinceramente per me non lo è, perché la commemorazione di Srebrenica è soprattutto una commemorazione contro il nazionalismo, quindi che ci partecipi un ultranazionalista lo trovo un po' incoerente, però sono ovviamente questioni politiche e la sua presenza rientra in queste. E Shems Osmanovic? Sì. Lei che ne pensa? Si arriverà mai a lasciarsi? Perché quei dati del sondaggio sulla percezione che i cittadini serbi hanno del massacro di 20 anni fa davvero lasciano un po' sgomenti, l'idea che quasi un serbo su due in fondo non lo condanni nemmeno quel massacro. Si arriverà mai a colmare questa distanza così grande? Io credo di sì, e sono molto contento che il primo ministro serbo viene a Srebrenica, perché questo è una strada, questo è... Siamo ancora all'inizio, cioè dobbiamo accettare gli errori, ne abbiamo fatto tutti quanti, però c'è differenza, cioè quando uno si difende e quando uno lo aggredisce, per cui è difficile adesso, diciamo, prevedere cosa succederà domani a Srebrenica, però io sono ottimista, credo che anche il popolo serbo si è reso conto di quello che è accaduto a Srebrenica. Rossini, le posso chiedere, prima di salutarla, il ricordo di una figura italiana che molto ha contribuito, anche se poi se n'è andata prima del massacro, cioè Alex Langer molto ha contribuito a capire quello che stava succedendo, aveva in realtà già gettato i semi per rendersi conto, forse se lo si fosse ascoltato di più anche a livello di cancellerie mondiali il massacro dell'11, 12, 13, 14 luglio si sarebbe evitato. Chi era Langer e perché è così importante conoscere, ricordare la sua opera e la sua figura per capire ciò di cui stiamo parlando stamani? Perché Langer era un pacifista, come lui stesso si definiva, un pacifista concreto, non affrontava anche le grandi questioni di politica internazionale in maniera ideologica, ma c'entrava direttamente anche personalmente, fisicamente, e cercava di trovare le soluzioni con quelli che erano gli attori in campo. Lui ha partecipato al movimento internazionale di solidarietà con la Bosnia Erzegovina, che ha coinvolto decine di migliaia anche di italiani, e da europarlamentare ha cercato invano di avere un intervento dell'Europa, della comunità internazionale di fronte a quello che stava accadendo in Bosnia Erzegovina. Cioè ha capito che quello che stava accadendo in Bosnia Erzegovina era fondamentale per il futuro dell'Europa, proprio per impedire che l'Europa prendesse una deriva nazionalista, una deriva di Europa solo come zona di libero scambio, non come un'Europa federale, un progetto europeo che potrebbe coinvolgere appunto anche i Balcani nel superamento di queste dinamiche purtroppo degli anni 90, che, come dicevate anche voi prima, non sono del tutto superate. E le parole di Langer vengono ricordate anche da diversi ascoltatori che si rifanno a lui e a Luca Rastello, che è citato più volte in questi giorni, l'abbiamo ricordato con grande affetto. La guerra in casa, un libro che molti ascoltatori hanno letto e invitano a rileggere. La sua figura è stata estesamente ricordata l'altro giorno in una bellissima puntata di Fahrenheit, peraltro, che vi consiglio di andare a riscaricare e a sentire in podcast. Tanti messaggi, ne leggo qualcuno, insomma, in realtà merita. Intanto li pubblico, sono sul sito radio3.rai.it. Mimmo, buongiorno Radio 3. In ogni guerra servono migliaia o peggio milioni di morti per sedersi al tavolo della pace. Pace che è un intervallo sempre troppo breve tra ogni guerra. Se l'uomo non cambia, la storia non cambierà. Come può l'Occidente, un'altra ascoltatrice scrive, a portare avanti discorsi sull'emancipazione se non sa e vuole nemmeno riconoscere le tragedie, genocidi che succedono alle porte di casa? E poi ancora, fate bene a ricordare questo spaventoso massacro perché molti se ne sono dimenticati e non è giusto dimenticare quanto è labile il confine tra solidarietà internazionale e realpolitik che ha indotto un paese europeo a ordinare ai suoi caschi blu di girare la testa dall'altra parte. È una questione complessa questa del ruolo di caschi blu olandesi, ma insomma io leggo volentieri questo, e lo pubblico anche questo SMS di Mirella. Tra gli italiani, intellettuali, artisti che guardarono con attenzione e passione a quel che accadeva nei Balcani, c'è anche Claudio Lolli che ora ascoltiamo con il suo Curva Sud. Forte di un tuono che scoppia in bomba da oltre Trieste e nelle nostre teste e non si ferma più. Guarda una macchia di rosso, colora il canale e del bene e del male, il colore del mare che sembra virare più al nero che al blu. E poi la lingua che si secca e balbetta nella fretta della nuova verità. Tocca il mio cuore discreto che si alza e rimbalza a su costole rotte e toccami il corpo che freme di rabbia e di malinconia. Annusa il profumo del fango, la polvere bianca, la guerra che avanza in facce tagliate, oscurate dal sogno di un'altra etnia. E poi la lotta che si staglia e si affretta alla battaglia del me. Nuova bugia. Mangiati questo dolore e gustati il succo di questa impotenza a capire l'amore che sembra il domani di questa città. Pensa, ti sembrano sensi, ti sembrano cinque, o ti sembrano sogni, oppure un ricordo più forte che vero dell'ambiguità. Questo presente è rosso sangue, questo ritorno di barbarie e novità. Senti che aria di fasci, stasera, stanotte, stasera mi lasci. Lo sono un po' troppo, io lo sono un po' troppo, dormire con te. Ma senti che aria di fasci, stasera, stanotte, stasera mi lasci. Lo sono un po' troppo, io lo sono un po' troppo, dormire con te. Dall'album Intermittenza del cuore del 1997, Curva Sud, del cantautore bolognese Claudio Lolli. Siamo i primi stamani a Radio 3 ad affrontare una vera e propria maratona, chiamiamola così, per ricordare i 20 anni del massacro di Srebrenica. Continuerà subito dopo di noi Anna Maria Giordano con Radio 3 Europa, poi Fahrenheit alle 15 e ancora domani alle 17:20 una puntata speciale in diretta di Pantagruel, in diretta con Srebrenica, condotta da Luigi Spinola. Ora siamo collegati al telefono con Oliviero Bettinelli. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. È responsabile dell'area pace e mondialità della Caritas, che ha in questi anni organizzato molti viaggi della solidarietà nella Bosnia orientale e che molto ha ragionato anche su un tema davvero importante per capire non solo il passato ma il presente e il futuro di quelle terre, cioè il rapporto tra le generazioni. Tra chi il massacro l'ha scampato ed era ancora bambino, come gli ospiti che abbiamo avuto nella prima parte, chi è un po' più grande e magari appartiene a etnie diverse. Bettinelli, cosa ci può dire di queste vostre esperienze? È stata un'esperienza nata proprio col desiderio di stabilire delle relazioni profonde, sia con i fatti che con le persone. Uno scambio che è avvenuto attraverso viaggi che da anni abbiamo proposto a gruppi di ragazzi, e li abbiamo accompagnati ad incontrare chi ha vissuto la guerra, con l'idea di accogliere una drammatica constatazione che le guerre non finiscono quando ci viene detto che sono finite, non finiscono quando si parla o si smette di parlare delle guerre sui giornali. Le guerre finiscono probabilmente mai nella storia delle persone, che le ferite restano aperte. Sono ferite che assolutamente hanno bisogno di essere incontrate. Noi abbiamo puntato molto su questo, non abbiamo fatto grandi cose né campi di lavoro né niente, però abbiamo incontrato le associazioni locali, abbiamo incontrato gli anziani, siamo stati con loro a parlare, incontrando la loro difficoltà a raccontare della guerra, di quello che era successo, di come l'avevano vissuta, e ci ha permesso sostanzialmente di renderci conto che questi percorsi di riconciliazione, di incontro sono molto lenti, sono molto faticosi, ma che hanno bisogno di essere sostenuti e accompagnati anche quando probabilmente si fa la fatica proprio di cogliere il senso, no? Perché muoversi per i villaggi, fermarsi la sera a parlare con le persone, incontrare le loro difficoltà, sentirsi dire quello che c'era prima, quello che c'era adesso, e sentirsi dire la loro incapacità di capire quello che è successo, perché prima erano amici, ora no, perché prima si conoscevano, ora no. E questo è stato un po' l'obiettivo di questi viaggi, è l'obiettivo su cui noi lavoriamo, un obiettivo educativo, lasciamo poi ad altri la possibilità di ragionare, di raccontare e anche di analizzare i fatti. Questo sì, però magari una cosa ce la può dire, a noi interessa molto capire le persone che voi avete incontrato, le associazioni, gli appartenenti a diverse fasce d'età e generazioni, come vivono oggi la spartizione della Bosnia su base etnica, quella che, come abbiamo ricordato, è stata sancita 20 anni fa agli accordi di Dayton, come un ostacolo, come qualcosa che si supererà, come un destino ormai irreversibile? Diciamo che l'ostacolo e il destino irreversibile vanno di pari passo, no? Io ricordo Sarajevo, vie dove da una parte della strada ci sono dei numeri, dall'altra parte ci sono altri tipi di numeri, condotte dell'acqua gestite da comunità diverse, insomma indubbiamente viene vissuta con grande sofferenza e con l'incapacità di vedere una via d'uscita, Abbiamo avuto un incontro dove col vescovo Sudar Sarajevo dove diceva siamo troppo piccoli, no, la Bosnia è troppo piccola per essere interessante per il resto del mondo, per cui ci dovremmo gestire i nostri problemi così come sono. E c'è tanta sofferenza, c'è tanta anche incomprensione, nonostante poi comunque il virus della guerra sia stato capace di alimentare poi il disagio e il conflitto anche culturale che spesso emerge dai racconti, emerge però con una sorta di rabbia, quasi di impotenza, perché quello che è successo è stato quasi imposto e di conseguenza non lo si riesce a capire. Ci si trova a sentirsi schiacciati da qualcosa che non si voleva, che adesso ti costringe a vivere in un modo nel quale non vorresti vivere. Senta, le persone, gli italiani che partecipano a questi vostri viaggi della solidarietà in Bosnia, con quale sensazione tornano a casa? Perché immagino partano con una certa dose di informazioni che hanno letto sui giornali italiani di quel che è successo. Ecco, poi cosa succede quando arrivano lì? Quando facciamo partire i ragazzi, facciamo formazione, volutamente diciamo che alcune cose non gliele vogliamo dire, perché devono poi loro scoprirle. La percezione immediata è quella di un impatto emotivo molto forte, che ti porta quasi a essere incredulo rispetto a quello che la gente ti racconta, quello che tu vedi. Quindi c'è questa dose di un primo passaggio di consapevolezza che non si sa, non siamo in grado di capire veramente i drammi di queste situazioni. Questo sia nei diari che loro scrivono, che poi nell'elaborazione di altri strumenti utilizziamo poi per raccontare nelle scuole e nelle altre realtà quello che è successo, emerge con molta forza, emerge proprio quasi l'incredulità di fronte al fatto che drammi così profondi che ancora esistono vengano in qualche modo accantonati e non vengano presi in considerazione nel pensare di costruire società, forse stati, forse continenti. Penso all'Europa che sia in grado di leggere questo. Una forte dose di incredulità e quindi di necessità di approfondire e di capire. Oliviero Bettinelli, grazie. Emanuele D'Arezzo, Srebrenica e altre stragi dimostrano che se l'ONU e i grandi della terra non pongono al centro alcuni diritti rinunciabili per l'umanità e li affermano nelle parole e nei fatti, come fa il Papa, dice Emanuele, non c'è alcuna speranza. Onda Verde ora, noi ci risentiamo tra pochissimo. Ore 10:45. Detersivi Scala, qualità italiana, pulito sicuro, valore della convenienza. Amici automobilisti, subito per voi un regalo nei centri Motor Glass aderenti. Sostituendo il parabrezza della vostra auto entro il 31 luglio, avrete in omaggio il kit vacanze Motor Glass. Info all'810-1112 o su motorglass.it. Onda Verde. Viaggiare informati. Una buona giornata e un nuovo aggiornamento con le informazioni sul traffico. Partiamo dal nord, dalla tangenziale ovest di Milano, dove si rallenta per traffico intenso tra Rho e Settimo Milanese in direzione dell'allacciamento con l'autosole A4, traffico intenso e rallentato tra Fiorenza e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Torino. Strada Grande Comunicazione, Firenze Pisa Livorno, code per lavori tra Santa Croce sull'Armo e San Mignato Basso in direzione di Firenze. Siamo a Roma sul tratto urbano della A24, code tra Via dei Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale est. Sul grande raccordo anulare si rallenta tra lo svincolo della Via Casilina e quello della Via Appia in carreggiata interna, ma anche tra la diramazione di Roma Sud e la Via Appia in direzione proprio dell'Appia. Tangenziale est si rallenta tra l'uscita di San Lorenzo e Viale Castrense in direzione di San Giovanni, e poi in Via Castro Pretorio si rallenta per un incidente all'altezza di Via Palestro. Al sud, sulla 14 Pescara Bari, code per un chilometro tra Pescara Sud e Tona in direzione di Bari, questo per lavori, ma anche tra Lanciano e Vasto Nord in direzione sempre di Bari. Sulla Roma-Napoli si rallenta per un incidente tra l'allacciamento A1 e la diramazione Capodichino in direzione di Napoli. Infine al sud, in Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, si rallenta a seguito di un incidente tra Trabia e Termini Imerese in direzione di Catania. Aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità, lo ricordiamo, Raiso Radio 103.3 FM. Da Maria Cristina Manca, un buon viaggio. In collaborazione con il CIS. Tutta la città ne parla. Esse come Sarajevo, noi, tutti noi, non potevamo non vederla. Ma Srebrenica, chi se la ricorda, via. È grande, ma è grande come la capocchia ad uno spillo. In terra di Bosnia, ma proprio lì ai confini con la Serbia, dove per 3 anni sono vissute assediate 40.000 persone. Dico 40.000. I sopravvissuti raccontano che per i primi 11 mesi nessuno è venuto a chiederci niente. Neanche un giornalista. Né la Croce Rossa, né l'ONU, né dalla Bosnia, né dal mondo. Nessuno. Ma come nessuno? Nessuno. Oggi ci sono le testimonianze, i processi tuttora in corso al Tribunale Penale dell'AIA e nelle corti interne. Immagini poche, pochissime su Srebrenica. Allora io decido che imparo un nuovo alfabeto. A come Srebrenica. Eccolo qua. E ci siamo dentro tutti. Ah, come Srebrenica è uno spettacolo teatrale con Roberta Biagiarelli per la regia di Simona Gonella, basato proprio sul lavoro, sul libro più volte ricordato anche dai nostri ascoltatori stamani di Luca Rastello, La guerra in casa. Roberta Biagiarelli è un'attrice, autrice, documentarista che nel 1998 si appassiona alle vicende dei Balcani, scrive questo testo e poi nel 2005-2006 produce e interpreta un film documentario che forse alcuni di voi ricorderanno, Souvenir Srebrenica. Peraltro Marina Lalovic, che nel frattempo mi ha raggiunto in studio, studio, questo spettacolo lo ha visto. Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Maria, dobbiamo approfittare di te, gli ascoltatori più affezionati lo sanno, tu sei serba di Belgrado, vivi in Italia, a Belgrado ci stai per tornare tra poche ore, credo. Oggi pomeriggio, sì. E vorrei chiederti due cose e poi dopo andiamo a vedere cosa dicono gli ascoltatori su Facebook. Come si sta apprestando a vivere questo anniversario, se qualcosa cambia a Belgrado, e poi insomma questi dati, quel sondaggio che ho letto, l'ho ritrovato con un'agenzia, secondo il quale solo il 54% dei tuoi connazionali si sente di condannare esplicitamente il crimine, cioè significa che il 46% non lo fa. Come si spiegano dei dati così sconcertanti? Questa domanda, Pietro, mi sono anche posta esattamente un anno fa quando feci un documentario sul centenario dell'inizio della prima guerra mondiale a Sarajevo, quando poi feci una specie di sondaggio fra i cittadini di Belgrado riguardante l'assedio di Sarajevo. È una questione che non c'è una spiegazione, è una questione di non condannare ma non di ammetterlo, di non pensarci, semplicemente perché non ti saprei dire, e lo trovo molto emozionante questa domanda, perché paradossalmente io di queste cose, e soprattutto i cittadini bosniaci come Šemsko, che ho conosciuto qui in Italia, come Šemso Osmanović che conosco personalmente, come anche molti altri croati, ma anche gli stessi serbi che comunque vivevano in queste zone, li ho conosciute qui in Italia, e ho conosciuto il mio paese solo grazie all'Italia, paradossalmente. Ho conosciuto la Jugoslavia grazie alla mia permanenza, diciamo, da osservatore non più partecipante qui in Italia. Se chiedessi alle mie amiche, oppure se facessi un sondaggio, non lo negano, ma non ci pensano. Trovo ugualmente grave, devo dirti la verità. Perché si è sempre raccontata l'indifferenza sostanziale di chi viveva a Belgrado a poche centinaia di chilometri da quei massacri. Erano gli anni 90, tu eri adolescente. Sì, io avevo 13 anni, ugualmente. Ecco, sì, non se ne parlava perché poi tu devi anche capire che in quei periodi non avevamo, diciamo, i mezzi di comunicazione, diciamo, di social media come Facebook e Twitter, che in qualche maniera mettono in collegamento i cittadini. Avevamo la propaganda di Milošević. Quello che si sta facendo forse a Belgrado oggi, qualche passo forse ci sarebbe, perché c'è questa manifestazione di Dušan Mašić, che è un giornalista che tenta di organizzare questa manifestazione chiamata 7000, ovvero 7000, dove 7000 persone dovrebbero fare una specie di flash mob domani davanti al Parlamento serbo. 7000 persone si dovrebbero sdraiare davanti al Parlamento. Però ecco, poi dopo anche a Radio 3 Europa faremo una specie di breve rassegna stampa locale. Effettivamente c'è un effettivo battibecco, perché forse non sarà permessa questa manifestazione, perché in concomitanza ovviamente ci sono i nazionalisti, i radicali, che vogliono fare ugualmente la manifestazione contro questa manifestazione di commemorazione. È un continuo cane che si morde la coda, che è un po' l'emblema purtroppo della situazione. Non avrei una risposta, Pietro. La risposta potrebbe essere lavorare sulla comunicazione interregionale, lavorare soprattutto sulle generazioni giovani, lavorare sui manuali di scuola, dove tu effettivamente puoi scrivere e informare, perché io credo e posso assicurarti che le generazioni di mio fratello, che è del 92, non ne sono consapevoli, perché semplicemente non sono stati informati. Mentre invece anche in Bosnia, separata in due entità intricamente distinte, e le scuole sono separate e anche i manuali di storia sono diversi. E questo è, diciamo, il più grande ostacolo da superare, Pietro, perché è da lì che bisogna iniziare per guardare al futuro. Diamo la voce velocemente ai nostri ascoltatori. Sì, ecco, vuoi dirci anche qualcosa? Anche qui ce ne sono già tre collegati, abbiamo sette. Sarò velocissima, anche perché, Pietro, paradossalmente non ci sono tantissimi commenti, perché credo anche il silenzio sia una specie di commento di fronte a una scelta del nostro tema odierno. Leggerò quello di Renzo, perché è una testimonianza molto particolare, che ci scrive su Facebook. A quel tempo ero in Olanda, rammento una sera in tram. Un uomo si alzò, cominciò ad urlare furiosamente, declamava la responsabilità dei caschi blu. Aveva gli occhi spiritati ed io ebbi brividi, come ancora oggi quando penso a ciò che accadde. E poi c'è una madre, Emanuela, che dice: io ho ancora nel cuore e nelle orecchie il racconto di una mamma a cui era stato portato via il figlio sedicenne. a Srebrenica. Lei diceva suo figlio urlava e la chiamava con la voce in falsetto mentre lo portavano via. Io l'ho sentito questo urlo perché anche mio figlio aveva 16 anni. E poi molti ringraziamenti per questa scelta di oggi, ovviamente. E Rock Rock, magari per tornare anche all'attualità, ci collega con le vicende greche. Anche questa tragedia evidenzia cosa può portare l'irresponsabilità della comunicazione della comunità internazionale, e mette in primis la Germania, per la sua stessa forza, che domenica, quando si dovrà decidere del destino della Grecia, l'abbiano ben presente, perché gli occhi del mondo sono puntati su di loro e potrebbero passare alla storia. Antonio, buongiorno, benvenuto. Salve, buongiorno. A lei la parola. Senta, io ho assistito veramente a un episodio increscioso. Subito dopo Mostar mi fermo per strada andando verso Sarajevo, in un paesino piccolo, lungo la Neretva. Beh, sicuramente assisto in piazza a un signore alto, massiccio, che dice un altro qualche cosa di impressionante. Difatti sicuramente tutti si allarmano, e chiedo a un giovane che cosa ha detto, e lui in francese mi dice: sei ancora vivo? Ecco, questo dalla dimensione dell'odio che esiste ancora tra quelle parti. Antonio, grazie di questa testimonianza e della commozione palpabile con cui ce l'ha raccontata. Nena, buongiorno, benvenuta anche lei. Buongiorno a tutti. Sì, io invece ho scritto un messaggio parlando della mia vergogna, che tuttora permane, perché all'epoca io avevo una ventina d'anni, e poco più, e insomma, a me in realtà ne avevo anche 23-24, facevo la mia vita da studente con problemi stupidi, nel senso esami, sentimenti. E io, lo dico onestamente, me ne sono assolutamente strafregata della guerra in Bosnia e nell'ex Jugoslavia, che ho conosciuto meglio qualche anno dopo. Tra l'altro, io già 2 anni fa sentii un Wikiradio che parlava proprio del massacro di Srebrenica, se non sbaglio era proprio Marina Alalovic a parlarne, e già allora a me venne da piangere, da pensare a come ero allora. E l'unica cosa che io posso fare adesso è sensibilizzare, come diceva lei stessa, i giovani. Io ho un nipote che è nato esattamente quell'anno, un mese prima del massacro, e penso proprio di parlarne con lui, perché adesso quello che si può fare è mantenere viva la memoria e basta. Senta, Nena, secondo lei perché sì, c'era una così grande indifferenza in Italia? Io la posso testimoniare, ho forse qualche anno meno di lei, ma insomma sì, più o meno siamo coetanei. E anch'io ricordo, a parte, diciamo, chi aveva scelto di impegnarsi davvero, una sostanziale indifferenza per qualcosa che accadeva a un tiro di schioppo, a centinaia di chilometri. A poco decine di chilometri, ma io penso che negli anni 90 noi italiani, adesso siamo un po' più svegli, e forse quello è uno dei meriti di internet e dei social network, che pure hanno tanti svantaggi in termini di informazioni false, eccetera, però se ne parlava anche nei media, ma forse non tanto come adesso. E poi temo che noi italiani, insieme a una grande generosità, però abbiamo un po' di menefreghismo. Qualche volta siamo chiusi nel nostro orticello, siamo molto individualisti, e c'è anche un'altra cosa. La dico adesso in modo cinico, ovviamente io non la penso così, ma per noi slavi, eccetera, valgono meno di altri. Se fosse successo fra Germania e Francia, sicuramente saremmo stati tutti super turbati, ma in fondo i Balcani erano i Balcani, per noi, come dire, una cosa lontana di non tanto valore. Nena, la ringrazio, grazie davvero. Marina, torno a te. Appunto, se voi vi sentite responsabili, da noi ancora, diciamo, ci sono grandissime distanze, non dal punto di vista dei chilometri, ma proprio della comunicazione. Faccio proprio un appello, che proprio non c'è la comunicazione esistente, palpabile, nei Balcani tutt'oggi. Per quanto riguarda il Twitter, Radio 3 Tweet, i commenti, ci sono tantissimi suggerimenti di lettura, reportage che hai anche menzionato te, di Gigi Riva a 20 anni dalla strage di Espresso. Poi Maria Laura, Srebrenica, allora si pensò a un sacrificio utile per fine guerra, follia disumana. Poi una cosa alquanto scioccante, gira questa foto di Mladic che brinda con i suoi generali, e brindisi, il brindisi della vergogna, lo chiama la nostra ascoltatrice. Maria Pasquale, Radio 3 Tweet, nel 94 Ruanda, 95 Srebrenica, 4 anni dopo nacquero le occidentali guerre umanitarie, ossimoro orwelliano. E poi Roberto, Srebrenica attualmente presente, non solo esercizio di memoria. C'è spazio per un breve intervento di Jacopo, se può. Buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Allora, io credo che la soluzione si possa trovare solo mettendo tutti i Balcani dentro la Comunità Europea, l'Unione Europea. E se questa diventa però gestibile perché politicamente diventa una federazione. E questo è un po' il pensiero di Emma Bonino. C'è una nota che va, un'avvertenza che va presa. Anche la Jugoslavia era una federazione, anche l'URSS era una federazione. Ma quando non c'è democrazia e quando c'è un paese come allora la Serbia che pretende l'egemonia, le federazioni saltano. E questa è anche una lezione per l'Europa. Oggi c'è qualcuno che rischia l'egemonia e dovrebbe averne paura. Jacopo, grazie. Grazie anche a lei. Non... Rimanete con noi perché si continua a parlare di Srebrenica con Anna Maria Giordano. Marina Lalovic la risentirete tra poco. Ci sarà Lucio Caracciolo. Poi ricordo Fahrenheit alle 15. Domani ancora Pantagruel alle 17.20 in diretta da Srebrenica con Luigi Spinola, Pietro Soldà, Marina Lalovic, Fiore Liborio, oggi la parte tecnica, Diego Marras alla regia, Cristina Faloci, Filippo Battisti, Cristiana Castellotti. Vi danno invece appuntamento a lunedì mattina alle 10.